quel po' che ci vuole per alimentarsi meglio e per anche riprodursi di più. La popolazione aumenta anche grazie alla patata, anche grazie a quello che dà la patata. Però questo ha un impatto anche negativo, perché si potrebbe pensare, beh, tanto è un bene che si possa mangiare di più, perché la patata offre quasi, a livello nutritivo, quasi un alimento completo, è quasi una, quindi è un bene da questo punto di vista. Però dall'altra parte l'aumento della popolazione, specialmente nelle zone montane, che sono zone diciamo marginali, o sono ecosistemi fragili, no? E quindi la patata, l'aumento della popolazione mette tutto questo a rischio e quindi contribuisce al fenomeno migratorio, insomma l'emigrazione massiccia che caratterizza gli ultimi decenni dell'Ottocento in poi. Grazie professore, abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringraziamo molto per questo suo interessante contributo. Il libro si chiama Italiani mangia patate, fortuna e sfortuna della patata nel bel paese. Buona serata e grazie. Grazie a voi, buonasera. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato a tre momenti cruciali della storia dell'umanità. L'esplosione del primo ordigno atomico che mise fine alla Seconda Guerra Mondiale, il primo trapianto di cuore che mostrò nel 1967 come tecnologia e scienza potevano migliorare la vita dell'uomo in modi prima di allora impensabili, e infine le battaglie per i diritti civili degli afroamericani dell'Alabama del 1965. 6 agosto 1945. 3200 metri sopra l'Oceano Pacifico. Il colonnello Paul Tibbets, pilota di bombardiere. 30 anni, un prodigio militare. In missione segreta per porre fine alla Seconda Guerra Mondiale. Nelle tasche di Tibbets, 12 pasticche di cianuro, una per ogni uomo a bordo. Essere catturati vivi non è previsto. Sanno troppe cose. In 5.000 anni e 14.500 guerre sono morti 3 miliardi e mezzo di esseri umani che hanno cercato di esercitare la loro massima forza alla massima distanza. Ad ogni nuova generazione, una nuova arma. Ma l'umanità non ha mai conosciuto un'arma come questa. La massima espressione del potere, la bomba atomica. Nome in codice, Little Boy. Obiettivo, Hiroshima, Giappone. Prima, la bomba deve essere armata. Il capitano William Parsons, uno dei progettisti, comandante della bomba. Per volare in sicurezza prima del decollo, ha rimosso il detonatore. Ora deve reinserirlo. Il nucleo della bomba è di uranio, generato in un'esplosione cosmica 6 miliardi di anni fa, prima della nascita del nostro pianeta. Inattivo finché gli scienziati non scindono i suoi atomi, scatenando un'energia apocalittica che può annientare la nostra specie o alimentare il nostro futuro. L'alba, 1400 chilometri dal Giappone. Un bombardiere americano B-29, l'Enola Gay, trasporta l'arma più distruttiva della storia dell'umanità. Richard Mac Machovitz, esperto militare ed ex Navy SEAL. Gli uomini a bordo dell'Enola Gay sapevano cosa dovevano fare ed erano concentrati sui dettagli della missione. Ma nessuno sapeva davvero che cosa sarebbe successo una volta sganciata la bomba. Ore 9:14. Un segnale d'allarme di 60 secondi. Sotto, una città di 350.000 persone. Tibbetts ha 43 secondi per lasciare la zona della detonazione. Un'esplosione 10.000 volte più calda della superficie solare. La bomba uccide oltre 60.000 persone all'istante. Tre giorni dopo, una seconda bomba atomica. Il Giappone si arrende. Brian Williams, NBC Nightly News. È l'energia più terrificante che si possa scatenare sulla Terra. Ecco perché ne abbiamo viste solo due nella storia del mondo. Dal 1945 l'umanità vive nell'era atomica. Oggi ci sono oltre 19.000 testate nucleari in grado di distruggere 20 volte la nostra specie. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Con le armi atomiche alla fine arriviamo a una specie di crisi spirituale. Ci siamo spinti troppo oltre. E che cosa significa poter controllare queste forze naturali dal potere tanto distruttivo? Ma insieme a un'arma terribile arriva anche una fonte di energia rivoluzionaria. L'energia nucleare. Attualmente la terza delle principali fonti di elettricità, potenzialmente in grado di alimentare il nostro pianeta per miliardi di anni. Nel XX secolo, tecnologia e scienza sono gli strumenti per migliorare il nostro mondo. La vita umana compie un enorme salto in avanti, in un ospedale del Sudafrica. 1967, Città del Capo. Christian Barnard. Un pioniere della medicina con 20 anni di esperienza. Si prepara a riprogettare il corpo umano. Il paziente, Louis Wyszkenski, ex pugile e atleta. Destinato a morire senza la chirurgia rivoluzionaria di Barnard, il primo trapianto di cuore al mondo. Mehmet Oz, ospedale presbiteriano di New York. Fu un momento rivelatore. Mostrò che insieme tecnologia e scienza potevano migliorare la vita dell'uomo in modi impensabili. La chiave dell'operazione è una nuova tecnologia, la macchina cuore-polmoni, l'apice dell'ingegnosità umana. La tecnologia ha sempre migliorato le nostre vite, permettendoci di superare i limiti del nostro corpo e di avanzare più lontano e più velocemente di qualsiasi altra specie. Ora, uomo e macchina si uniscono per riprogettare la vita stessa. Barnard ha eseguito 50 trapianti di cuore sui cani, ma nessuno su un uomo. Wyszkenski ha avuto in passato 3 attacchi cardiaci. È seriamente malato. Un muscolo grande quanto un pugno, essenziale per la vita di tutte le persone del pianeta. Il cuore umano compie 2,5 miliardi di battiti nell'arco di una vita di media durata. Un battito mancato può essere fatale. Primo passo, rimuovere il cuore malato e attaccare Wyszkenski alla macchina che farà il lavoro del cuore. Mehmet Oz, ospedale presbiteriano di New York. L'idea che una cosa sacra come il cuore, l'organo dei poeti, il metronomo interno del nostro corpo, possa essere sostituito mantenendo in vita il paziente è inconcepibile. Dopo 3 ore e mezzo di intervento, mentre il sangue del paziente viene pompato meccanicamente, Barnard deve attaccare il cuore del donatore prima che diventi inutilizzabile. Barnard avvia il nuovo cuore. Il cuore batte, ma è ancora alimentato da una macchina. Deve pulsare da solo. O Wyshkensky morirà. Il primo trapianto di cuore umano al mondo. L'operazione che potrebbe rivoluzionare la medicina moderna è a un punto critico. Dopo 3 attacchi cardiaci, Louis Wyshkensky ha un nuovo cuore, ancora alimentato da un'apposita apparecchiatura. Ma quando Christian Barnard spegne il macchinario, il nuovo cuore esita. La pressione sanguigna precipita. Si sta fermando. Wyshkensky ha un cuore esausto. La sua sopravvivenza è incerta. E con essa il futuro della medicina. Mehmet Oz, ospedale presbiteriano di New York. Non era solo la carriera di Barnard ad essere a rischio, ma anche i sogni di molte persone, fiduciose del fatto che si potessero eseguire i trapianti con successo. Per salvare la vita del paziente, Barnard lo riattacca al macchinario e prova di nuovo. Il nuovo cuore batte e continua a battere senza il macchinario. L'operazione più complicata della storia è un successo. Mehmet Oz. Cuori meccanici, trapianti di altri organi, rigenerazione di tessuti. Tutto ciò è possibile perché un uomo coraggioso ha compiuto un'impresa inimmaginabile, dimostrando che era possibile. La procedura di Barnard ha salvato oltre 75.000 vite. Solo negli Stati Uniti i chirurghi eseguono oltre 2.500 trapianti di cuore all'anno. I nostri organi ora possono essere sostituiti e riprogettati. Nuove parti del corpo, nuove tecnologie, un nuovo genere umano. Ma mentre scienza e tecnologia ci liberano dai limiti del nostro corpo, dall'altra parte del mondo sono anche indispensabili per una nuova vittoria nella lotta per la giustizia e i diritti individuali. Selma, Alabama, 1965. 600 afroamericani chiedono un cambiamento, ispirando una lotta globale per la libertà. Amelia Boynton, 53 anni, un'attivista per i diritti civili dai tempi del liceo. Sta marciando per il diritto di voto. A sbarrarle la strada, secoli di discriminazione. Nel sud regna il razzismo, ma solo il 25% dei neri degli stati meridionali è iscritto alle liste elettorali. La volontaria Boynton li aiuta a registrarsi. Le autorità bianche li ostacolano con la burocrazia e l'intimidazione della polizia. L'unica opzione è protestare. La loro destinazione è la capitale dello Stato, Montgomery. Determinato a fermarli, c'è Jim Clark. Mitragliere aereo della Seconda Guerra Mondiale. Sceriffo di Selma. Rappresenta tutti i maschi bianchi sopra i 21 anni, insieme a 200 agenti della polizia di Stato. Ma questo confronto non passerà inosservato. Sul posto c'è il cameraman locale, Lawrence Pierce. Un ultimatum di 3 minuti per disperdersi e andare a casa. Ma i dimostranti non si ritirano. 90 secondi dopo, la polizia attacca. 40 lacrimogeni. 8 bombolette di gas emetico. Tra la folla attaccata c'è anche l'attivista Amelia Boynton. Richard Mac Machovitz, esperto militare ed ex Navy SEAL. Immaginate il coraggio e la paura che quelle persone hanno nell'affrontare la situazione mentre vengono colpite da randelli, calci e pugni finché non finiscono a terra. Amelia Boynton viene data per morta. Resterà priva di sensi per 2 giorni. Ma nell'era moderna la televisione ha un ruolo fondamentale per qualsiasi movimento di protesta. Il giornalista Lawrence Pierce invia subito il filmato a New York. 15 minuti di immagini crude interrompono il film della domenica sera della ABC. Nel 1965, 9 famiglie americane su 10 posseggono un televisore. Tutte e tre le reti mostrano la violenza di Selma, 45 milioni di spettatori. Nel giro di 15 giorni, il presidente Lyndon Johnson propone la legge sul diritto di voto, che vieta la discriminazione degli elettori. Una pietra miliare legislativa. Un punto di svolta per i diritti civili in America. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Mankind, la storia di tutti noi, oblio o eternità. Regia di Nick Brown e Dan Clifton, titolare dei diritti ATN, casa di produzione Nutopia. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.